quanta fatica si fa a sopravvivere in questa realtà. La vita giorno per giorno si prende gioco di noi, mille pensieri ci assalgono e ci spaventano un po', a quel punto però manda la testa altrove, c'è un paradiso per te che solo tu sai dov'è. Magari in una cantina per suonare in compagnia, oppure una ballerina che con la spider ti porti via, in un posto lontano dove forse tu non sai che c'è, però quando ci arrivi ti accorgi che assomiglia a te. Di noi allora tutto ci appare come una spiaggia deserta, ma amico mio stai allerta, manda la testa altrove, c'è un paradiso per te che solo tu sai dov'è. Magari in una cantina per suonare in compagnia, oppure una ballerina che con la spider ti porti via, in un posto lontano che forse tu non sai che c'è, però quando ci arrivi ti accorgi che assomiglia a te. Manda la testa altrove, portati il sogno con te se la valigia non c'è. Partono da una cantina, volano verso l'utopia, nel paradiso lontano, e forse tu non sai che c'è, però quando ci arrivi, ricordi che assomiglia a te, a te, a te, ti accorgi che assomiglia a te, a te, a te, ti accorgi che assomiglia a te.